Grazie per essere rimasti in piedi fino alla fine. Anche io mi sono seduto. In realtà stasera mi siederò perché voglio un po' avere un messaggio intimo con ognuno di voi. Vi piace? Ci facciamo un caffè stasera. E quindi mi sono fatto portare lo sgabello alto, così sono nella modalità che stiamo insieme, no? Cuore a cuore. Mentre arrivavamo qui in chiesa, stavamo pregando in auto io e Simona, e io so che quello che Gesù vuole fare stasera nella tua vita è lasciare un'impronta. E questo non ha a che fare con quello che io dico, questo ha a che fare nel momento in cui apriamo la sua parola e la leggiamo e la mangiamo. Quella parola lascia un'impronta. E sapete, durante il momento di adorazione abbiamo cantato dei versi biblici. In ogni parola, in ogni frase c'era un riferimento di un verso che possiamo leggere all'interno della parola di Dio. E io so che già un'impronta lo Spirito Santo l'ha lasciata. E sapete cosa faceva vedere Dio a me e a Simona? Che quell'impronta non sarà un'impronta lasciata sulla sabbia, che uscirai da questo posto e te la dimenticherai, ma sarà un'impronta sulla roccia che rimarrà. E quando tu la guarderai, da qui a distanza di tempo, ti ricorderai di quello che Dio vuole fare attraverso di te. Sì? Siete con me? Ce la vogliamo prendere questa impronta? Io ho bisogno questa sera di predicarmi questo messaggio, anzi di predicarmi il messaggio che Paolo ha predicato nell'Areopago di Atene, perché è lì che stiamo andando. Siamo nel secondo viaggio missionario dell'Apostolo Paolo. Vi ricordate, un mese fa lo abbiamo lasciato che era appena arrivato ad Atene, nel capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, e lì ad Atene stava aspettando che Sila e Timoteo lo raggiungessero. E vedete cosa dice? Stiamo per leggere, secondo me, uno dei momenti più alti della narrazione nel libro degli Atti degli Apostoli, se non la mia parte preferita. Ecco perché mi sono seduto, non sia mai dovessi svenire, tanto mi sento emozionato che la stiamo leggendo. Siete con me? Quindi dal verso 16 leggiamo che mentre Paolo aspettava Timoteo e Sila ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Sapete, l'espressione utilizzata in questo verso per dire che lo spirito gli si inacerbiva dentro la ritroviamo identica nel Vecchio Testamento, parlando del sentimento che Dio ha provato quando il popolo di Israele ha costruito il vitello d'oro mentre attendevano che Mosè scendesse dal monte Sinai con le tavole della legge. Quello stesso ardore e gelosia che Dio ha provato per il suo popolo, che lo voleva tutto per sé, è quello stesso sentimento che Paolo ha provato in questo momento. E io mi chiedo, che cosa aspettiamo noi a ricercare quello stesso sentimento che Dio prova di gelosia per me e per te, per le persone intorno a noi? Perché lui le brama, le desidera, le ama. E perché Paolo era allineato con lui e ha provato quel sentimento, lo Spirito Santo si è servito di lui. Ascoltate per dire cosa. C'è prima un pezzo prima. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: che cosa dice questo ciarlatano? E altri: egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. Presolo con sé, lo condussero nell'Areopago, dicendo: potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi, poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Erano un po', sai, ficchettini che volevano sapere tutti i fatti. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto ho trovato anche un altare sul quale era scritto, ascoltate bene, al Dio sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. Io ve lo annunzio. Il titolo del messaggio di questa sera è Al Dio conosciuto. Al Dio conosciuto, perché il desiderio che Dio ha per te e per me è che la storia della nostra vita possa essere un altare con su scritto il nome di Cristo Gesù e non un altare scritto ad un Dio conosciuto, ad un Dio sconosciuto. E lui lo spiega e dice: Dio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi costruiti da mani d'uomo e non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. E lo abbiamo anche cantato. Lui che dà la vita a tutti, il respiro e ogni cosa. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché Egli non sia lontano da ciascuno di noi. Dio, infatti, difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche sua discendenza. Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia simile a oro, o ad argento, o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: su questo ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio l'Areopagita e una donna chiamata Damaris e altri con loro. Fantastica predicazione. Come lo riconosciamo questo Dio conosciuto? Come facciamo a riconoscerlo? Come facciamo a sapere che lui? Come lo presenta l'Apostolo Paolo, questo Dio che non è sconosciuto ma è conosciuto? Lo presenta come un Dio creatore, creatore di ogni cosa, dell'universo, che non abita in un luogo fisico, che non ha bisogno di un rituale umano per essere Dio. Lui è Dio, è Lui che ha creato e che dà la vita a tutti, che dà il respiro a tutti, che dà ogni cosa a tutti, e siamo noi ad avere bisogno di Lui. È stato bellissimo che Ilaria, durante il momento di adorazione, ha detto: grazie Signore Gesù perché abbiamo bisogno di Te. Noi dobbiamo essere grati perché siamo noi ad avere bisogno di Lui e non Lui ad avere bisogno di noi. Sennò stavamo messi molto male, almeno se aveva bisogno di me, stavamo messi molto male. Questo implica che noi e Dio siamo in relazione, abbiamo una relazione l'uno con l'altro perché Lui è vicino. L'Apostolo Paolo ha detto: Lui è vicino, al di là di quello che noi percepiamo, al di là di quello che noi pensiamo, al di là di come noi ci sentiamo. Per questo è da stupidi andare dietro ad un Dio sconosciuto. Questo è quello che ha detto l'Apostolo Paolo. Che senso ha andare dietro ad un Dio sconosciuto e costruirgli pure un altare? Piuttosto dobbiamo abbandonare l'idea ignorante che abbiamo di Dio. Dobbiamo abbandonare l'idea ignorante che abbiamo di Dio e ravvederci dalla nostra idolatria. Questo è quello che sta dicendo Paolo nell'Areopago. A quale Dio sconosciuto continuiamo a dare autorità nella nostra vita? Questa è una domanda che io mi sono posto. A quale Dio sconosciuto continuiamo a dare autorità nella nostra vita? Alla paura? All'orgoglio, alla tentazione, alla mancanza di perdono, a cosa? Alla rabbia, al dolore, all'invidia, ai soldi, al rigetto, alla ricerca di approvazione che ricerchiamo negli altri. A chi stiamo costruendo questo altare, a questo Dio sconosciuto? Il desiderio di Dio per te è che la storia della tua vita sia un altare con su scritto il nome di Cristo Gesù, perché solo nel nome di Cristo Gesù quel valore e quella dignità che risiedono dentro di te possono trovare la loro espressione, e tu sarai in grado di scrivere una storia straordinaria, sarai in grado di scrivere qualcosa che va al di là di quello che sono le mie forze, le tue forze e quello che sono le nostre capacità. Questo va al di là della percezione che io ho di me e che tu hai di te. Noi non stiamo parlando di te, non stiamo parlando di me, stiamo parlando del Dio che è creatore, che è sovrano, che è padre, che è giudice giusto, che è colui che ci sostiene e che sostiene ogni cosa, così come l'apostolo Paolo lo ha spiegato nella predica che ha fatto. Ed è arrivato il momento di abbandonare quell'idea ignorante di Dio che lo mette sullo stesso livello di un Dio sconosciuto. È arrivato il momento di abbandonare quest'idea che abbiamo di un Dio che lo mette piccolo accanto ad un Dio sconosciuto e afferrare quella verità che in Cristo Gesù tu sei figlia di Dio. In Cristo Gesù tu sei figlio di Dio. Noi siamo figli e figlie di Re. Noi siamo figli e figlie di un Re eterno che nella sua sovranità permette a noi, perché è Lui che permette, è Lui che ci dà l'accesso, è Lui che abilita la storia della nostra vita ad entrare, a far parte, ce lo ripeterò fino alla nausea, fino a quando avrò fiato nei miei polmoni, è Lui che permette alla storia della nostra vita di entrare a far parte di una storia molto più grande. Una storia che è molto più grande della nostra storia piccola e finita. Una storia che parla della missione di Dio, del suo piano per raggiungere il nostro mondo che è rotto dal peccato, dall'odio, dalla disubbidienza, dalla ribellione, e portare il suo piano di salvezza e salvarci. E sapete una cosa? La sua salvezza che noi abbiamo afferrato non è fine a se stessa. Non è perché è bello essere salvati, ma perché Lui vuole coinvolgerci in questa missione che Lui ha e vuole farla con noi e vuole viverla con noi e vuole portarci ad essere noi quell'estensione che Lui vuole essere per tutte quelle persone che non hanno ancora ascoltato e non hanno ancora saputo che in Lui hanno la vita eterna. Questa può essere la mia storia e questa può essere la tua storia. Quindi, domanda, queste sono le domande più belle che ci facciamo sempre, no? Immaginateci che io sono venuto a casa tua a farmi i fatti tuoi, abbiamo letto questo verso e mo io ti dico, beh, allora, Mary, che cosa vuole dire oggi a te Paolo attraverso questa predica nell'Areopago? Che cosa vuole dire oggi a noi Paolo attraverso le parole che abbiamo appena letto? Questa è una domanda utile da porci quando leggiamo la parola di Dio, perché la parola di Dio in sé contiene un messaggio che vale per il momento in cui è stata scritta, ma avendo un valore eterno, in sé contiene un messaggio che vale per me e te oggi. E in sé contiene un messaggio che varrà per me e te domani, e dopodomani, e fino a quando avremo vita su questa terra. Quindi che cosa ci vuole dire Paolo questa sera? Lo zio Paolo, come lo chiamo io. Ciao zio Paolo. Punto numero uno, apri la tua zona interdetta. Apri la tua zona interdetta. Che cos'è una zona interdetta? Sapete, da definizione, prego la regia di mandare l'immagine, una zona interdetta è un'area dove è proibito l'accesso, dove non si può entrare. Da qua in poi, vietato l'accesso. Apri la tua zona interdetta. Quale zona interdetta mantieni ancora attiva dentro di te? Dove non vuoi che Dio possa entrare? Dove lo stiamo lasciando fuori? Dove ti stai rifugiando ancora nei tuoi vizi? Dove ti giustifichi per continuare a fare quello che fai, dire quello che dici e pensare quello che pensi e ti giustifichi davanti a Dio per perpetuare tutto questo? Dove? Dove stai permettendo ad un Dio sconosciuto di costruire un altare dentro di te? La verità, sapete qual è? Che quando la zona interdetta che noi ritroviamo dentro di noi rimane interdetta per troppo tempo, neanche noi ne abbiamo più accesso. È vero? Perché abbiamo paura. E noi pensiamo di essere padroni e tu pensi di essere padrone di te stesso, ma la verità è che il peccato che abita in te è diventato padrone di te e lui non ti fa più accedere lì dentro e non ti fa più vedere le profondità del tuo cuore e ti dice che non vale la pena andare. Questa è la verità. Il desiderio di Dio per te, invece, è che la storia della tua vita sia un altare con su scritto il nome di Cristo Gesù. In fondo, amici e amiche, chi può cercare nelle profondità del tuo cuore e continuare ad amarti nella tua parte più intima? Chi lo può fare? Solo Cristo Gesù l'ha fatto. Ecco perché tutti hanno bisogno di Cristo Gesù. Tutti, al di là di quello che tu pensi, al di là della tua filosofia, al di là di quello che tu credi, chi ti guarda e ti cerca fino nella profondità di quello che tu sei e che tu hai dentro di te e continua ad amarti in quella parte più intima? Solo Cristo Gesù lo fa. Solo lui lo ha fatto con me. Solo lui continua a farlo con me. Ecco perché io ho bisogno di lui. Non vivere la libertà di Cristo Gesù in funzione o in misura in cui tu, nella misura in cui tu vuoi essere liberato. Non vivere la libertà di Cristo Gesù nella misura in cui tu vuoi essere liberato, ma vivi la libertà di Cristo Gesù nella misura in cui lui ti ha reso libero sulla croce. È diverso. È diverso vivere la libertà che Gesù ha preparato per la mia vita in misura di quanto io voglio essere libero e di quanto io voglio farlo entrare, piuttosto che vivere la libertà che lui ha strappato su quella croce nella misura in cui lui l'ha veramente strappata, nella misura in cui veramente ha preso ogni cosa che mi separava da lui. E questa è la libertà per te e per me. Sapete perché ogni 15 giorni noi ci vediamo con i gruppi familiari? Perché non siamo soli in tutto questo. E non siamo i soli in tutto questo. Non siamo i soli a dover aprire la nostra zona interdetta e permettere allo Spirito Santo di entrare per liberarci. Ma siamo circondati, siamo tutti insieme in questa barca. Siamo tutti insieme l'uno accanto dell'altro nel sapere che possiamo contare l'uno sull'altro nel poter aprire quello che noi abbiamo dentro di noi e permettere a Dio di farci vivere la sua libertà. Per questo, anziché stare a casa, seduti sul divano, quella sera, a guardare la TV, da soli, possiamo scegliere di spendere quel tempo costruendo delle relazioni che ci permettono di metterci in gioco, che ci fanno uscire dalla nostra zona di comfort, che ci fanno, in un certo senso, conoscere altre persone che sono completamente diverse da noi, persone con le quali noi non andremo mai a mangiare la pizza, persone che noi pensiamo che sono diametralmente opposte da noi, ma che in fondo, come noi, sono ad una ricerca disperata di Cristo Gesù. In un modo o nell'altro, come direbbe il pastore Pinuccio, storti o contorti, per quanto possono essere le persone che nel tuo gruppo, sono persone che sono alla ricerca di Cristo Gesù. E sapete, più di un mese fa ci siamo fermati con alcuni capigruppo della nostra chiesa e abbiamo vissuto un ritiro dove intenzionalmente abbiamo aperto le nostre zone interdette e abbiamo imposto le mani l'uno sull'altro, abbiamo pregato l'uno per l'altro, abbiamo permesso allo Spirito Santo di entrare e di metterci in libertà nella libertà che Lui ha vinto su quella croce per noi, per poi ritornare a casa, aprire le nostre case, vivere il gruppo con te e appropriarci con te di quella libertà. Per questo noi viviamo i gruppi familiari, per questo non puoi mancare. Apri la tua zona interdetta. Non è facile. Apri la tua zona interdetta. Punto numero 2. E ripristina il tuo impianto. Lo dobbiamo ripristinare questo impianto. Quanti di voi si sono mai trovati in una casa dove c'era un impianto elettrico proprio vecchio, datato, che non c'era neanche il quadro? Qualcuno di voi si è mai trovato in una casa così? Assai che tu la vuoi, come dire, arredare con i mobili più belli, con le decorazioni più fantastiche. Sapete cosa succede? Che ad un certo punto, se arriva un cortocircuito, te ne vai a fuoco tu e quella casa, perché l'impianto non è stato ripristinato. Non aggiustare quello che si vede, lasciando marcire quello che non si vede e che sta sotto. Sai perché? Perché prima o poi un fulmine arriverà e il cortocircuito ti colpirà e ti manderà in cortocircuito. E se non hai ripristinato l'impianto, tutto il lavoro che avrai fatto se ne andrà in fumo, letteralmente, e ti sentirai perso, come se Dio non l'avessi mai incontrato, mai conosciuto e mai visto nella tua vita. Sapete, Gesù lo ha spiegato, questo stesso concetto, nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca, dicendo che non possiamo mettere un pezzo di stoffa nuovo su un vestito vecchio, perché il vestito poi si strappa. E ha anche detto che non possiamo mettere un vino nuovo in un otre vecchio, perché l'otre poi si rompe. E sapete che cosa facciamo noi? Rimaniamo in modalità off. È vero? Rimaniamo in modalità off, così ci evitiamo il cortocircuito. E diventiamo come quei credenti che sono credenti non praticanti. È vero? Noi non pratichiamo. E ci arrabbiamo con Dio, perché Lui non è fedele. Perché Lui non ha mantenuto le sue promesse. Piuttosto che invece essere noi ad avere un impianto da rifare che non è più in linea con Lui. Non è bella questa cosa, io lo so. No, è colpa di Dio. È vero? Quante volte lo diciamo? È colpa degli altri che non mi accettano e non mi capiscono. È colpa di mia moglie. È colpa di mio marito. È colpa dei miei figli. È colpa dei miei colleghi. Aspetta che li ho scritti tutti. È colpa del mio capo, per non lasciare nessuno fuori. È colpa delle persone, ecco perché io non vengo più in chiesa. Questo mi piace di più. È colpa di quelli che stanno nel gruppo dove mi hanno messo. Quante volte l'abbiamo detto? È colpa di quelli che stanno nel gruppo dove mi hanno messo. E io non ci voglio andare, che devo andare a fare? È vero. Non costruire con la storia della tua vita un altare ad un Dio sconosciuto non ti porterà da nessuna parte. Non ti porterà da nessuna parte. Piuttosto ripristina l'impianto. Sai perché? Perché se ripristini l'impianto, una volta ripristinato l'impianto, nessun fulmine ti porterà in cortocircuito. Nessuno, niente. E tu rimarrai in piedi, come Sara ha predicato splendidamente domenica scorsa. Tu rimarrai in piedi. Il desiderio di Dio per te è che la storia della tua vita sia un altare con su scritto il nome di Cristo Gesù, dove accendi l'interruttore per essere on, e sei on davvero. Sei on davvero, non quando tutto va bene, non quando gli altri ti piacciono e sono simpatici e ti dicono tante cose belle. Sei on anche quando tutto quanto è scomodo e tu non sei comodo e c'è un prezzo che devi pagare. Ripristinare l'impianto, sapete, ha un costo, il tuo costo. Ripristinare il tuo impianto elettrico per andare in linea con Dio ha un costo, ed è il tuo costo, che non ha niente a che vedere con il costo che Gesù ha pagato su quella croce per salvare me e te dai nostri peccati, da una morte eterna dalla quale noi abbiamo scampo. Non ha niente a che vedere con questo, ma è la tua croce che devi prendere e lo devi seguire. E Gesù ce l'ha detto. Non è che Paolo qui agli Ateniesi si è inventato una nuova dottrina. In tutti i Vangeli è scritto, in Marco 8 noi leggiamo che Gesù dice, se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore mio e dell'Evangelo la salverà. Apri la tua zona interdetta, ripristina il tuo impianto. Punto numero 3, vivi il soprannaturale come naturale. Vivi il soprannaturale come naturale. Dove ti viene naturale perdonare chi ti ferisce? Ti viene naturale. E per perdonare io non intendo fare finta che non sia mai accaduto quello che è successo. Questa è la negazione. E noi siamo molto bravi a vivere in negazione e lo facciamo per tante cose e non ci serve. Ma dove perdonare significa scegliere di non ricordare nonostante ti fa male. Questo significa perdonare. E questo è soprannaturale. Questo è soprannaturale. Cioè supera la tua natura, supera la mia natura, è al di là di quello che sono le mie e le tue capacità emotive. Come puoi scegliere di dimenticare qualcosa, scegliere di non ricordare qualcosa che ti fa male? Come puoi? Hai bisogno dello Spirito Santo. Hai bisogno dello Spirito Santo per farlo, perché da solo non ce la fai. Vivere il soprannaturale dove ti viene naturale essere amorevole verso ognuno, al di là di come si comportano con te e al di là di chi è. Dove ti viene naturale essere gioioso anche nelle difficoltà. Sei gioioso anche nelle difficoltà. Dove ti viene naturale portare pace e non seminare zizzania nelle relazioni che vivi. Perché tu devi sembrare meglio degli altri. Dove ti viene naturale avere pazienza. Avere tanta pazienza. Non dire, mo la pazienza è finita. No. Un soprannaturale che ti viene naturale dare sempre un'altra possibilità. Perché Gesù l'ha data a te. Gesù l'ha data a te. Gesù la darà a te. L'abbiamo anche dichiarato cantando. Che lui ci rialza quando noi cadiamo. Un soprannaturale dove ti viene naturale essere benevolo e pensare bene degli altri. Pensare bene degli altri. Al di là di come si comportano, al di là di chi sono, al di là della faccia che hanno. Pensare bene. Dove ti viene naturale essere ripieno di bontà, tanto che vuoi sacrificarti. Vuoi sacrificarti per le persone del tuo gruppo, vuoi sacrificarti per le persone della tua famiglia, vuoi sacrificarti per quel vicino di casa. Un soprannaturale naturale dove ti viene spontaneo rimanere fedele, senza tirarti indietro, senza buttare la pietra e poi nascondere la mano. Un soprannaturale dove ti viene naturale vivere mansueto verso tutti, verso tutti. Al di là di chi ti trovi davanti, porti la mansuetudine e porti quella parola che spegne quell'ira e quella collera. Un soprannaturale dove ti viene naturale vivere autocontrollo con tua moglie, con tuo marito, in ogni circostanza e in ogni situazione. Dove ti viene naturale pregare per la signora che è al supermercato, anzi la fai passare avanti, perché hai chiesto allo Spirito Santo una parola per lei e stai aspettando di capire tutto quello che lo Spirito Santo ti vuole dire per poi dirglielo. E quindi la fai passare avanti. E nel frattempo nella mente continui a pregare. Signore, ma tu che cosa mi dirà questa donna? ma tu che cosa vuoi dire a questa persona? Questa persona ha bisogno di te, che cosa gli posso dire? Questo è vivere una vita soprannaturale come se fosse naturale. E sapete un po', l'Apostolo Paolo, quando scrive la lettera ai Filippesi, nel capitolo 3, al verso 12, la mette in questi termini. E lui dice, non che io abbia già ottenuto tutto questo, o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino, ascoltate adesso, per cercare di afferrare ciò per cui sono stato anche afferrato da Cristo Gesù. Questa è la mia preghiera per me, che io posso afferrare il motivo per cui Gesù Cristo mi ha afferrato. Perché mi ha afferrato Gesù? Perché sono qui oggi? Che cosa vuole fare con me? Dove vuole andare con me? Come lo dobbiamo fare quello che dobbiamo fare? Un soprannaturale dove ti viene naturale credere che Dio ti può guarire. E non ti stanchi a dichiararlo, e non ti arrendi, ma continui a confessarlo e dichiararlo fino a quando ogni respiro tu avrai nei tuoi polmoni. E quando il dubbio viene, perché il dubbio viene, e il dubbio può venire, sapete, quando ci viene il dubbio non è mancanza di fede. Quando viene il dubbio è un'opportunità che noi abbiamo per aprire la nostra zona interdetta, dove c'è il dubbio, far entrare lo Spirito Santo, permettere allo Spirito Santo di ripristinare l'impianto che forse aveva avuto qualche danno, e ritornare a confessare con fede dove l'avevamo lasciato, che Lui è capace di farlo, che Lui è potente di farlo e che Lui lo può fare. Questa è una vita soprannaturale, come se fosse naturale. Ha senso quello che sto dicendo? Un soprannaturale dove ti viene naturale fare uscire sempre una parola buona, che uccide quella parola cattiva, che la blocca, che la ferma, che la soffoca. È vero? Con tuo marito e con tua moglie. Ah! Esce sempre in maniera così naturale quella parola buona. E non quella cosa che gli vuoi dire perché la devi ferire, perché ha sgarrato. E quando sgarri, sgarri. E non ce ne sta per nessuno. Quella parola buona nell'educare i tuoi figli, quando ti fanno perdere il controllo, quella parola buona quando qualcuno ti attacca, che lo rende mansueto, che lo ridimensiona, che lo riporta alla misura di Cristo Gesù, la quale tu hai scelto di vivere la tua vita e non lui, forse. Quella parola buona che tu hai quando la circostanza diventa difficile, troppo pesante, e tu vorresti maledire tutti i giorni che sei nato e ti butti maledizioni addosso. Vivere una vita soprannaturale ti porta ad essere così naturale nel dirti a te stesso sempre quella parola buona, anche quando tutto è storto, anche quando pensi di aver sbagliato tutto, tu lo sai, perché lo Spirito Santo che vive dentro di te ti fa vivere una vita soprannaturale e ti dà la forza di non maledire la tua vita, di non maledire la vita delle persone intorno a te, ma di benedire, di benedirti e di benedire. Non costruire un altare ad un Dio sconosciuto. Lo Spirito Santo ti è stato donato. Lo Spirito Santo ti è stato donato. Il desiderio di Dio per te è che la storia della tua vita sia un altare con su scritto il nome di Cristo Gesù. Ed il tuo cercare il soprannaturale non sia qualcosa di mistico, qualcosa di esterno da te, qualcosa di sconosciuto, che come deve accadere questa cosa, quanto piuttosto come qualcosa di conosciuto. Ricercare il soprannaturale è qualcosa di conosciuto ed è così vicino a te che è dentro di te. È qualcosa che riguarda il tuo cuore completamente arreso e completamente disposto a cercare a far crescere la presenza dello Spirito Santo dentro di te, a far vivere la vita dello Spirito Santo dentro di te. E come cresce e vive la vita dello Spirito Santo dentro di te? Come abita lo Spirito Santo in noi? Attraverso l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la benevolenza, la bontà, la fedeltà, la mansuetudine, l'autocontrollo. Sto semplicemente elencando le caratteristiche del frutto dello Spirito Santo che abita in te. Che abita in te. Che non vede l'ora di diventare così naturale, così comodo dentro di te, da essere sprigionato da tutti i pori. Non perché sei bravo, non perché sei bello, non perché sei brava, non perché sei bella, non perché lo sai fare, perché lo Spirito Santo abita dentro di te e Lui ti porta a vivere una vita soprannaturale come se fosse naturale. Quale posto migliore se non la famiglia per allenarci a diventare naturali con il soprannaturale, è vero? Mia moglie non ha mai esercitato il dono delle lingue da quando mia figlia abbiamo iniziato a svezzarla, e ad ogni pappina io la vedo lì a intercedere, e ormai parla più nuove lingue a casa che parla in italiano con me, tanto è la preoccupazione di questa cosa. E se la famiglia non ci basta ad esercitare, ad essere l'opportunità per tirare fuori quello che lo Spirito Santo ha di soprannaturale dentro di noi, Dio ci ha donato una famiglia ancora più grande che la Chiesa. Bellissima questa famiglia, è vero? Non ci basta il tempo che passiamo qui la domenica, è troppo poco. Dobbiamo vederci pure in settimana. Dobbiamo andare pure al gruppo familiare. Dobbiamo essere lì, perché è lì che Dio ci permette anche di confrontarci con persone come noi, che forse non si sentono soprannaturali, ma che possono imparare a vivere una vita soprannaturale come se fosse naturale, dove possiamo costruire quelle relazioni che ci portano a vivere quel destino che Dio ha preparato per noi. Non circondarti di persone che ti buttano giù. Non circondarti di persone che non sanno vedere e che non vogliono rincorrere il destino che Dio ha per loro e il destino che Dio ha per te. Circondati di persone che sono amiche del tuo destino, che sanno riconoscere quel valore e quella dignità che risiede dentro di te, che deve venire fuori, e che sono lì a dire: ehi, anche io oggi non ci credo, però mo mettiamoci a pregare, perché Gesù lo crede e lo posso credere pure io. Per questo noi abbiamo i gruppi familiari, dove tu vai non perché qualcuno ti deve intrattenere e ci deve dire qualche cosa, ma dove tu vai e sei pronto perché vuoi aprire la tua zona interdetta, forse con una persona, non con tutti, dove tu vuoi ripristinare il tuo impianto, non ce la fai, però sai che se parli con quel fratello, con quella sorella, lui saprà darti quella parola saggia. Quel posto dove tu vai già preparato, non per quello che tu devi prendere, devi ricevere, ma per dare, per essere tu quello che va da quella persona e gli dà quella parola buona, per essere tu quello che va da quella persona e l'accoglie e l'abbraccia. Per questo noi ci vediamo, per avere un'opportunità e un'occasione per vivere di più quello che non riusciamo a vivere oggi. Alziamoci in piedi. Io non farò un appello questa sera, perché so che lo Spirito Santo ha già messo la sua impronta dentro di te. Voglio concludere dicendo questo: che quando la storia della tua vita diventa un altare al Dio conosciuto, quelle zone interdette si aprono. Quelle zone interdette si aprono permettendo allo Spirito Santo di entrare e di farti essere libero nella misura in cui Gesù ti ha reso libero su quella croce. Non c'è cosa migliore, non c'è cosa più bella di questo. Quando la storia della tua vita diventa un altare al Dio conosciuto, allora il tuo interruttore è on. Il tuo interruttore è on e non è off. perché permetti allo Spirito Santo di ripristinare il tuo impianto e farti essere in linea con Lui. E non avere paura di pensare che forse hai capito male, che forse hai sbagliato, che forse non lo stavi ascoltando. Va bene, Gesù non ti sta giudicando per questo. Gesù vuole ripristinare quella linea, vuole riallacciare quel campo, perché ha ancora tante cose da fare con te. Quando la storia della tua vita diventa un altare al Dio conosciuto, allora afferri il motivo per cui sei stato afferrato da Cristo Gesù, permettendo allo Spirito Santo di regalarti una vita soprannaturale, come se fosse naturale, come se fosse naturale. Sì, Signore Gesù, veniamo davanti a te così come noi siamo. Signore, tu ci conosci, tu conosci le profondità del nostro cuore e tu ci ami, Signore Gesù, tu ci ami in quella parte più intima dove forse noi abbiamo difficoltà a guardare. Io prego, Spirito Santo, che noi possiamo avere i tuoi occhi nel guardare, i tuoi occhi nel cercare, che possiamo aprire quello che di interdetto c'è e farti entrare e permettere a te, Spirito Santo, di ripristinare dentro di noi quello che deve essere ripristinato, perché il nostro desiderio è di vivere una vita soprannaturale come se fosse naturale. Grazie perché in te noi possiamo, grazie perché tu metti dentro di noi il desiderio e il bisogno di te. Ti amiamo, Signore Gesù, e vogliamo dichiarare e confessare le parole di questo coro a voci piene, mettendo un sigillo su quello che è l'opera tua dentro di noi, mettendo un sigillo su quello che sono le tue parole per la nostra vita, mettendo un sigillo su quello che tu vuoi realizzare attraverso la storia della nostra vita. Rendi la nostra vita un altare con su scritto il tuo nome, perché a te chiamiamo, Signore Gesù. Amen.